Cliff Record, tornando in diretta, Closer Colder, il lavoro probabilmente più bello del progetto Fault Line, tra l'acustico e l'ambient elettronico. Per questa mattinata, sì, magica, se vogliamo anche nuvolosa o nebulosa, per meglio dire, ovattata, ma sempre impermeata di questa inquietudine che arriva dalla lettura delle prime pagine, che arriva dalle notizie, che tra l'altro abbiamo anche avuto in conferma dal GR di Radio Popolare. Condivido le parole del direttore in conclusione, in cui dice: è il silenzio dell'Europa. Che Gaber citava la cara vecchia Europa. Prima eravamo europei. L'Europa che più prende voce adesso è quella della destra, più feroce, quella del trattato di Visegrad con la Polonia, con l'Ungheria. Indubbiamente emergenza idrica, perché poi le parole arrivano e non voglio neanche far la figura di quello che non sa vedere oltre che quello che il proprio occhio riesce a percepire, e non sono certamente un ingegnere idrico, ci mancherebbe. Dico quello che vedo come abitante 3 giorni alla settimana sul canal di Botta. Voi direte: ma cos'è? Cos'è questo canal di Botta? Cosa è? Un importantissimo corso d'acqua che va ad alimentare i tratti di comunicazione tra Adige e Po, come il canal Naviglio di Loreo, come il canal Bianco di Adria. Sapete, ho la passione per i corsi d'acqua, non li conosco scientificamente, li conosco dal punto di vista emotivo e geografico, e chiaramente quando posso ho bisogno di un'abitazione esattamente su un corso d'acqua. Il canal Tartaro, il canal Bianco, li sto citando un pochino tutti quelli principali nella rete idrica della parte più in alto del Delta Veneto del Po, cioè quella che da Porto Tolle arriva fino alla foce d'Adige con Camorosin e il volto di Rosolina. Quelli sono per ora in buona salute, da quello che vedo e dalle esattamente immagini che tra l'altro poi vengono anche confermate dalle ultime parole che abbiamo sentito nel GR. Non sono certamente, per così dire, ancora in emergenza. Poi, se in Piemonte e in Lombardia ci sono invece gravissimi problemi, quello indubbiamente non lo metto certamente in discussione, anzi tutt'altro, dico quello e riferisco quello che ho vissuto negli ultimi weekend e anzi qualcosa di più. Quando parliamo di quei corsi d'acqua, quando parliamo di queste zone, voi immaginate il canale che sia il canale che passa da Cadefabbri? No, non sono quei canali lì, sono dei corsi d'acqua veramente imponenti, importanti, comunque sì, è per dare conoscenza, anzi ne danno anche un valore estetico in mezzo a questa pianura assolutamente suggestivo. Ma detto questo, è il momento dell'incipit, è curato, condotto da Silvia Pioggia. Sentiremo che lettura ci propone, almeno nelle prime 20 righe, per poi dopo avere stimolo e curiosità di approfondire e continuare. Un nuovo romanzo in questo caso. Sentiamo allora l'incipit di oggi. Ciao, sono la Sissa e questo è l'incipit, tutto in 20 righe. Il grande Oscar Wilde diceva: non c'è una seconda occasione per fare una prima buona impressione. E allora, che cos'è la prima pagina di un libro se non la sua prima occasione? Approfondendo la questione dell'incipit, ho scoperto che ci sono vari tipi di incipit. C'è quello descrittivo, quello narrativo, oppure quello in media res. Ci sono vere e proprie teorie sul valore e l'importanza di questa prima parte del romanzo e della sua influenza sul lettore nella scelta per la lettura. È quindi un tema che riguarda sia addetti ai lavori che non. Io sono molto istintiva e mi lascio attrarre dall'estetica del volume e dal fascino dell'autore. E voi invece, in base a che cosa decidete se e quale libro leggere? Leggerò insieme a voi la prima pagina di alcuni volumi nei quali mi sono imbattuta in libreria e scopriremo se questa teoria delle 20 righe è un metro efficace per valutare le nostre selezioni di lettura. Questi sono i primi paragrafi de La mia famiglia e altri animali di Gerald Darrell. Questa è la storia dei 5 anni che ho trascorso con la mia famiglia nell'isola greca di Corfù. In origine doveva essere un resoconto blandamente nostalgico della storia naturale dell'isola, ma ho commesso il grave errore di infilare la mia famiglia nel primo capitolo del libro. Non appena si sono trovati sulla pagina, non ne hanno più voluto sapere di levarsi di torno e hanno persino invitato vari amici a dividere i capitoli con loro. Soltanto con immensa fatica e usando una notevole astuzia sono riuscito a salvare alcune pagine sparse che ho dedicate esclusivamente agli animali. Nelle pagine che seguono ho cercato di dare un quadro preciso e tutt'altro che esagerato dei miei familiari. Essi sono rappresentati come li vedevo io. Per spiegare alcuni dei loro tratti più strambi, comunque, mi sento in obbligo di precisare che nel periodo in cui stemmo a Corfù eravamo tutti molto giovani. Larry, il più grande, aveva 23 anni, Leslie 19, Margot 18, mentre io ero il più piccolo, avendo appena toccato il tenero e impressionabile traguardo dei 10 anni. Non siamo mai stati molto sicuri dell'età di mia madre, per il semplice motivo che lei non riesce mai a ricordarsi la sua data di nascita. Posso dire soltanto che era abbastanza avanti negli anni da avere 4 figli. Mia madre vuole anche che io dica che è vedova, perché, come ha osservato acutamente, non si sa mai che cosa può pensare la gente. Questo praticamente è uno spoiler o un'anticipazione del mio programma Incipit, quindi direi che l'ho letto principalmente per gratitudine. Sono rimasta abbastanza sbalordita quando ho visto che lo scrittore stesso ci stava dicendo come aveva strutturato il libro e che cosa ci dovessimo aspettare da questa lettura. Quindi, bravo, bravo lui, che ha risposto e anticipato una mia domanda almeno una sessantina di anni prima. Come on, my readers! E grazie Silvia, grazie alla Sissa Silvia Pioggia per questo incipit. Però devo mettere una multa di 5 euro ogni volta che sento quella parola. O un derivato del famoso spoiler. Ma che schifo! When you're making a scene, oh girl, you got to know what my head overlooks. The senses will show to my heart. When it's watching full eyes, you can't escape my private eyes. They're watching you, they see your every move. Private eyes, they're watching you, private eyes. non toglie, anzi ci mancherebbe, mica un peccato che il contenuto dell'incipit che sto portando ogni mercoledì per anticipare il nostro Voltiamo Pagina ci dà la possibilità di conoscere, di farci curiosi per altra letteratura. Consiglio in più. La mia famiglia e altri animali di Gerald Durrell. Daryl Hall, John Oates, grandi Daryl Hall e John Oates con Private Eyes alle 7:58, un minutino di musica ancora, pubblicità e poi voltiamo pagina insieme a Silvia Albertazzi, il nostro notaio Stefano, il quiz, anzi i quiz. Dovremmo essere allineati sulla stessa casa editrice, non so, non anticipo nulla, a tra poco.